sei bella Nina Trasteverina, tu che sei nata all'ombra del cupolo, sembri una muciacita dell'Argentina. Quando con tutta la passione balli l'ultimo baio, col fuoco nelle vene e la febbre in cuore, danzi pur coi rintocchi delle campanone. Sei nata per ballare, per far l'amore, Romanina del Baion, Romanina del Baion. Lasciatela passare, fisarmoniche e chitarre innamorate, lasciatela ballare, la bella Romanina del Baion. Quando vai sul carretto per i castelli, l'aria delle colline ti fa sognare, trotterellando suonano i campanelli ed un frenetico baion ti vien voglia di ballare. Forse sarà il vinello che dà calore, l'amore ti sorprende con un bacio, pure in quel bacio ardente ti balla il cuore, Romanina del Baion, Romanina del Baion. Lasciatela passare, fisarmoniche e chitarre innamorate, lasciatela ballare, la bella Romanina del Baion. Lasciatela passare, la bella Nina, Romanina del